E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Case infestate, persone possedute o che parlano con i morti, fantasmi e apparizioni. Nel suo libro Ghost, lo scrittore inglese Paul Roland, autore di decine di libri dedicati ai temi dell'occulto, raccoglie alcuni tra i più singolari esempi di fenomeni paranormali avvenuti nel corso della storia. Come questo caso, accaduto nell'Ottocento, che documenta la presenza contemporanea della stessa donna in due luoghi diversi. Nel 1845 la signorina Saget lavorava in Livonia, oggi Lettonia, come insegnante di francese presso la scuola di Neuwelke per fanciulle di buona famiglia. Era molto popolare tra le allieve, ma in lei c'era qualcosa di strano che esse non riuscivano a identificare. Era graziosa, competente, coscienziosa, eppure appariva distratta, come se avesse la mente altrove. Il punto è che non si trattava solo della sua mente. Andava altrove anche il suo doppio spiritico, il cosiddetto doppelganger. Per settimane pettegolezzi di corridoio avevano sostenuto che la signorina Saget fosse stata vista in due diverse zone della scuola nello stesso momento. Le altre insegnanti l'avevano trovata inizialmente un'idea risibile, liquidandola come una delle tipiche chiacchiere da ragazzine, ma dovettero presto affrontare il fatto che in Emily c'era davvero qualcosa di più, oltre a quello che vedevano. Un giorno la studentessa Antoine von Wrangel stava preparandosi per un ricevimento dell'alta società ed era insolitamente ansiosa, ma certo non si può imputare alla sua eccitata indole giovanile la visione che ebbe quando guardò oltre la propria spalla per vedersi allo specchio. Dietro di lei, occupate a sistemarle l'orlo del vestito, c'erano non una, ma due signorine Saget. Non sorprende che la povera ragazza svenne immediatamente. E non si trattò più di un pettegolezzo, ma di una certezza, quando una classe di 13 allieve vide il doppio della signorina Saget in piedi accanto alla sua controparte fisica, che copiava i movimenti della vera Emily. Nessuno poteva tuttavia rimproverare l'insegnante, che non aveva compiuto alcuna azione scorretta. Ormai l'intera scuola era una pentola in ebollizione di aneddoti in buona parte fantasiosi e infondati, perché le ragazze tendevano volentieri a enfatizzare le loro esperienze per il divertimento delle loro meravigliate amiche. Le storie giunsero infine all'orecchio della preside, ma non c'era alcun motivo concreto per redarguire l'insegnante e tantomeno licenziarla. Ella continuava a svolgere con scrupolo il proprio lavoro nella scuola. L'estate successiva segnò una svolta. Una mattina tutte le allieve erano radunate in una stanza con vista sul giardino da dove potevano vedere la signorina Saget che coglieva dei fiori. Quando l'insegnante che le sorvegliava lasciò la stanza, il doppio della signorina Saget si materializzò come dal nulla sulla propria sedia. Fuori, la vera Emily stava ancora cogliendo i fiori, ben visibile, sebbene i suoi movimenti apparissero ora fiacchi, come se la vitalità le fosse stata risucchiata via. Due delle ragazze più curiose non si lasciarono sfuggire l'opportunità di andare a toccare cautamente il doppio seduto sulla sedia. A una delle due parve di toccare della mussola, ma non del tutto solida. L'altra camminò tra il tavolo e la sedia, passando attraverso la figura seduta. Il doppio rimase fermo e inerte. Qualche istante dopo svanì, e le ragazze notarono che la vera Emily tornava ad essere la solita, mentre si muoveva tra i fiori con lo sguardo e i gesti di chi è ben presente a se stesso. Alla prima occasione, le studentesse la interrogarono, ma tutto quello che ella riusciva a ricordare era che, quando aveva visto la collega lasciare la stanza, aveva pensato di andare lì per sorvegliare la classe fino al suo ritorno. Evidentemente, i suoi pensieri l'avevano preceduta. Purtroppo, per lei e per la scuola, questo incidente non fu l'ultimo. Nei 18 mesi successivi, 30 allieve paganti vennero tolte dalla scuola da parte dei loro preoccupati genitori, dopo che i fenomeni descritti erano diventati l'argomento predominante delle loro lettere periodiche. A malincuore, la preside dovette infine rassegnarsi a licenziare la signorina Saget. Era il 19° incarico che ella doveva lasciare in 16 anni di insegnamento. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Paul Roland, Ghost, spettri, poltergeist, apparizioni, luoghi infestati e altri fenomeni paranormali. Gremese Editore, 270 pagine, 12,90 €. Deborah Myler è una scrittrice inglese che per un po' di anni ha vissuto a New York. Qui, grazie alla sua passione per i libri, è riuscita faticosamente a salvare due librerie indipendenti che rischiavano di chiudere, soffocate dalla crisi e dalla concorrenza delle grandi catene. Oggi Deborah rivive questa esperienza nel suo romanzo d'esordio, dove la protagonista, Else, è una giovane studentessa che in un momento particolarmente difficile della sua vita riesce a trovare lavoro nella sua libreria preferita. Sulla Broadway, schiacciata fra un negozio di Staples e uno di Gap, c'è la Civetta, la libreria dove vado sempre a farmi un giretto. Alcune copie del National Geographic traboccano sul marciapiede di fronte alla vetrina, come piccoli tesori gialli che promettono altre ricchezze all'interno. Forse perché sembra così insignificante, la Civetta riesce a rimanere una vecchia libreria sgangherata. Staples e Gap, accecati dal loro stesso splendore, non si accorgono quasi della sua esistenza, esattamente come gli altri giganti a caccia di una sede adatta. Ma in realtà brilla come un gioiello scuro in una strada luccicante. È molto facile non notarla, tuttavia ha radici profonde nella città e mi piace pensare che condivida qualcosa delle imprese più grandi e più antiche. Un'epoca può ignorare ciò che un'altra aveva amato e magari l'epoca successiva tornerà ad innamorarsene. I musei e le biblioteche servono proprio a salvare dall'oblio, ma dispongono anche di una flotta di piccoli, insignificanti imbarcazioni altrettanto fondamentali. Le librerie dell'usato sono alcuni dei rimorchiatori che possono portare la nave sana e salva in porto. La Civetta è piccola e di sicuro è molto malandata, ma è piena di nobili intenzioni. Regolarmente invaso da più libri di quanti gliene servano, George, il laconico e gentile proprietario, spesso ne espone alcuni negli stand fuori dal negozio e ogni tanto si riescono a trovare dei veri tesori nascosti a un dollaro. Io tengo sempre d'occhio i vecchi cataloghi d'asta perché molte volte è l'unica occasione che si ha di vedere un dipinto prima che varchi per sempre la soglia di qualche ricco collezionista privato. Lì in mezzo c'era il catalogo della mostra di Robert Motherwell, Elegia per la Repubblica Spagnola, relegato nel suo colore preferito, l'azzurro delle sigarette Galoise. Quella sfumatura azzurra del dorso è stata l'indizio che me l'ha fatto scoprire. Ma c'è chi riesce a trovare persino di meglio, basta cercare più a lungo. Una volta ero in libreria mentre George raccontava a un cliente di aver trovato una copia autografata di un libro di Robert Frost, la firma sottilissima in inchiostro verde sulla letta, scritta nella grafia incerta di un anziano, ma sicuramente autentica. George aveva tenuto la copia per qualche tempo, incerto se seguire l'impulso del collezionista o le ragioni del venditore. Alla fine la sensibilità poetica aveva avuto la meglio. George considerava più opportuno, questa la sua modesta opinione, leggere l'opera del poeta che ammirarne con cupidigia la firma. Come direbbe Frost, c'è qualcosa che non ama una prima edizione firmata, aveva concluso lentamente, ma con gli occhi accesi di passione. La prima cosa che mi ha colpito di quella libreria è stato il nome. Non sembra ideato per attirare fiumi di clienti e non la distingue da qualsiasi altro negozio di New York. La Civetta. Non c'è neanche un'indicazione che la faccia riconoscere come libreria. Potrebbe benissimo essere un bar o un negozio di animali. Mi piace andare in libreria. È il mio paradiso. Qui non mi devo mettere alla prova, come sono costretta a fare di continuo alla Columbia. Posso fare un giretto, oppure limitarmi ad ascoltare. Resta aperta fino a tardi, ogni tanto anche fin dopo mezzanotte. Io di solito ci vado verso sera, quando sono troppo stanca per lavorare ancora. Hanno esattamente il genere di libri che ti aspetteresti. I poeti e gli scrittori che prima o poi ti capiterà di leggere, Milton, Tolstoi, Flaubert, Hegel e Joyce, ma anche i più assurdi cataloghi e libri di critica. E poi, è chiaro, c'è anche l'odore rassicurante di carta, nuova o vecchia, che ricorda a chiunque la prima volta che si è infilato il naso dentro un libro. Quello che mi piace di più è la compagnia. Mi piace la gente che lavora lì e i clienti che arrivano a tarda sera per farsi un giretto e scambiare due chiacchiere. Il negozio è piccolino, sarà largo poco più di 3 metri, e al centro c'è una scala che porta al mezzanino. Ci sono libri su entrambi i lati della scala, in pile precarie, e non sono molti i clienti che hanno il coraggio di inerpicarsi fin lassù, tra le cataste di volumi impolverati.